anche Gabriele Vasquez colto dal traffico. Buonasera. Terribile, una congestione allucinante. Sì, eh. Ma allora invece ti racconto questo aneddoto. Sì. Allora, stavo nel traffico venendo qua. Sì. Che mi svicolavo tra le macchine. E a un certo punto davanti a me vedo una Renault rossa. Tutta tempestata di adesivi Radio Rock. Tipo, cioè, aveva anche sul tettuccio la bandiera degli Stati Confederati del Sud, era abbastanza amena. E vedevo anche che dal lunotto vedevo che emergevano dai pacchi una serie di mixer audio, roba. Allora ho deciso, adesso io mi affianco, guardo chi guida, chiede, e ho deciso che questo è l'ascoltatore medio, cioè questo che è ufficialmente un controllo a campione così a sorpresa. Questo è l'ascoltatore. Pelo, canotta, tatuaggio, grandissimo. Grazie. Mi ha dato grande soddisfazione. Ci hai parlato? No. No. Però ho deciso, e a te, uomo con canotta, pelo e tatuaggio, che oggi consiglierò Toy Story. Da vedere, eh. Beh, bellissimo. Tra l'altro, Toy Story 3 in 3D. Esatto, tra l'altro è già uscito da 2 giorni. Perché è uscito anticipato. È uscito mercoledì, quindi è molto probabile che molti ascoltatori più accorti sicuramente l'abbiano già visto. E arriviamo sempre in ritardo noi. Vabbè, questi anticipano. In realtà loro anticipano per fregare noi, capito? Lo so. È un gioco a ribasso a cui non possiamo prestare il fianco, se no dove finiamo? Oggi ho accompagnato all'aeroporto Martin Landau e non l'ho riconosciuto, Mettapino. Ma che, davvero? Incredibile. Ma Martin Landau c'ha un'età invereconda comunque. Che avrà? 200 anni? Da più o meno. 207 tipo. Vabbè, iniziamo, va. Allora, film usciti. Story da vedere. Toy Story 3. Allora, Toy Story 3 è l'annuale capolavoro Pixar. Ormai è quasi superfluo dirlo. Diciamo che la stranezza di questo film è che riprende la saga di Toy Story almeno 10 anni più o meno dopo il secondo. Si parla ancora chiaramente dei giocattoli. I protagonisti sono sempre Woody e Buzz. Questa volta la trama, diciamo che vagamente, come tipologia, vagamente riprende quella del secondo. Cioè, se ricordate bene, nel secondo era tutto uno scappare, un correre. Era un film molto fatto di corsa. Questo qui è un film d'evasione, cioè un film di carcere praticamente. Perché lo spunto è che Andy, il padrone dei giocattoli, va al college, è grande e cresciuto, va al college. E i giocattoli vengono per errore dati in beneficenza ad un asilo. E questo asilo, da che sembra un luogo paradisiaco, si scopre che in realtà è praticamente un carcere dal quale è impossibile uscire, gestito con pugno di ferro da un giocattolo particolarmente carismatico e potente, come sono queste figure che nel carcere hanno il potere. E chiaramente tutto quanto il film sarà giocato sulla grande evasione che loro tentano. Come ho già detto, un film bellissimo, ed è più che essere in linea con i vecchi Toy Story, cioè col primo e col secondo, è molto in linea invece con gli ultimi film Pixar, cioè con Up e Wall-E, nel senso che ha un sentimentalismo, un modo di commuovere a un certo punto molto, molto tipico di questi ultimi film. È veramente, allora, la cosa che mi ha stupito di questo film a me è che pur rimanendo sempre e comunque un film che ha come target primario i bambini, assolutamente, è solamente in seconda battuta che cattura anche il pubblico dei più grandi con una serie di raffinatezze incredibili, tra cui molte citazioni appunto del cinema carcerario, delle figure tipiche, personaggi tipici del carcere, molto molto carino. Ma la cosa incredibile è che, come spesso accade in questo tipo di film, c'è il momento in cui sembra tutto perduto. Sembra che non ce la faranno questa volta, stiamo per morire, queste cose così. Però in questo momento in cui sembra appunto che stiano per morire, da che si comportano come solitamente capita in questi film, a un certo punto si fermano, si guardano in faccia ai personaggi e lì si respira veramente la morte. Cioè, nei loro occhi tu cogli il fatto che sanno che stanno per morire e sono molto spaventati dal morire. Ed è una cosa che io al cinema non vedevo da una vita, mi ha sconvolto, mi ha impressionato tantissimo. Ce l'hanno fatta i cartoni animati, incredibile. Esatto, è una cosa veramente veramente incredibile. Specialmente un cartone animato appunto con un target infantile che riesca, certo, a affrontare con questa maturità la morte. Deve essere molto complicato fare un film, un cartone animato che piaccia ai grandi e ai piccini, cioè che sia bello sia per i molto bello sia per i grandi che per i piccoli. Sì, è veramente un'impresa ed è a qualcosa di straordinario che queste persone ci riescano da 15 anni a questa parte ogni anno, cioè è una cosa. Quindi sono dei genialoidi, dici? Ma allora, sai, poi loro sono, rispetto anche alle altre case che fanno animazione, loro sono quelli che più mandano in giro loro uomini, cioè loro mandano i loro uomini in giro a parlare, fare conferenze continuamente, cioè io ovunque io vado, nei festival o alle presentazioni, c'è sempre uno della Pixar che parla, una volta è uno sceneggiatore, una volta è un animatore, questa volta è venuto in Italia Guido Quaroni, che è l'italiano della Pixar, è uno che sta a un livello dirigenziale molto alto, è il supervisor tecnico, cioè è quello che il numero uno della tecnologia, che quando iniziano a fare un film, e magari, che ne so, in questo film sanno, per esempio per Toy Story 3, sapevano che ci sarebbe stata una scena in una discarica e che questo avrebbe posto molti problemi tecnologici realizzarlo, a lui gli dicono: pensaci tu, risolvilo, ti diamo altre 15 persone, il tuo team, e tu risolvi questo problema. Tecnologicamente proprio. E questi, insomma, questi della Pixar che girano, ai quali tutti quanti più o meno facciamo sempre la stessa domanda: ma com'è possibile che fate che arrivare a questo, cioè fare arte in questa maniera industriale, com'è possibile? Loro rispondono sempre che la vera differenza rispetto agli altri è che nella Pixar ha il ruolo dirigenziale, cioè quelli che solitamente sono i produttori, la gente dei soldi, quelli proprio, ci sono gli artisti. Cioè c'è gente che viene dal mondo dell'arte, che sono stati registi prima, insomma che hanno un tipo di mentalità non da scuola della finanza ma da grande artista. E specie me lo diceva pure qualche anno fa un uomo che era stato in Disney e poi era passato in Pixar e che appunto notava questa differenza, che è nettamente la cosa più lo scarto maggiore che c'è. Sebbene poi loro facciano i film per vendere i giocattoli, è incredibile, cioè Toy Story, Nemo, Cars, Wall-E, tutti i prodotti di marketing straordinari che vanno come il pane e che loro sfruttano fino all'ultima goccia, sì, cioè. Sì. Cioè c'è la carta igienica di Toy Story, c'è veramente di tutto. Eppure, questo però è tipico dei cartoni animati, se tu pensi che Mazinga, i primi cartoni di Mazinga furono creati da Gonagai perché esisteva il giocattolo e la casa di giocattoli gli aveva detto: fammi un cartone che io lo vendo per vendere il giocattolo, e quindi questo tipo di committenza, questo tipo di legame tra il gioco effettivo che si vende nei negozi e poi l'animazione è una cosa molto, molto antica e molto radicata. E un'altra cosa tipica della Pixar che si ritrova qua, perché in tutti questi film di questi 15 anni di Pixar c'è, in effetti è strano, loro sono tanti, sono almeno 5 grandi pilastri, 5 vecchi saggi più una marea di altri animatori, però c'è una linea comune, cioè questi film si assomigliano tutti come se fossero fatti da un autore unico che ha magari le sue fisse, no, come Scorsese con I Peccati, c'è una linea musicale comune, esatto, che è l'abbandono. Tutti i film Pixar hanno sempre, diciamo, la cosa minima che hanno sempre è un momento in cui i personaggi protagonisti si ritrovano lontanissimi da dove dovrebbero essere, e tra loro e il punto dove devono arrivare o quello che era casa loro si frappone un universo immenso per loro. Per esempio, alle volte per Toy Story è qualche isolato, qualche casa di distanza, che però per un giocattolo è un universo sconfinato. Per Nemo, alla ricerca di Nemo, era tutto l'oceano, il padre di Nemo deve attraversare tutto l'oceano per andare dal figlio, per Wall-E tutto lo spazio, per Up quasi tutto il pianeta, insomma c'è sempre un viaggio incredibile che viene fatto. E c'è sempre poi un momento in cui questi personaggi da soli di fronte a questo tragitto sconfinato sembrano non potercela fare. Capita pure in Monsters Inc. quando loro vengono catapultati nell'Himalaya, che sembra proprio che ogni volta che lo vedo penso: no, questa volta non ce la fanno a tornare, stavolta rimangono lì. Eppure qua appunto in Toy Story, nella grande evasione, il tentativo disperato di tornare a casa prima che Andy parta per il college, c'è questa idea di attraversare uno spazio incredibile, di quindi compiere un viaggio come metafora poi dell'impresa interiore. Chiaramente poi c'è tutto, poi una maturazione dei personaggi. Quindi andatevelo a vedere, non so se non l'avete già visto, se l'avete, io tornerò una seconda volta a vederlo. Addirittura? Eh sì, perché poi sa, questi sono film che qualcuno mi picchia se non lo porto a vedere, no? Ah, ecco. Cui, cioè, senti, invece spontaneamente tornerò una seconda. Come tecnologia 3D com'è? Ah, bellissimo, mi ha ricordato una cosa molto bella. Guido Quaroni, l'italiano della Pixar che è venuto qui in Italia, tra le solite tante spiegazioni che ci ha fatto su come procedano, come vanno, ha spiegato anche, adesso che sono al secondo film 3D, come approcciano loro il 3D, perché loro chiaramente devono fare tutto diversamente dagli altri, non possono, certo, avere sono cartoni animati, esatto, ma poi cioè, devono farla, loro per mentalità devono farlo anche diverso dagli altri che fanno i cartoni animati, cioè devono avere un metodo loro. Essendo cartoni animati, cioè non essendoci nulla di vero, loro la profondità se la inventano, cioè decidono arbitrariamente questo è lontano tot e questo è vicino tot, perché chiaramente non c'è un referente oggettivo. Allora, loro hanno deciso questo. Innanzitutto non esce niente dallo schermo mai, ma neanche pagati. Scelta proprio ideologica. Due, non si supera mai una certa profondità. Loro utilizzano un'unità di misura del pixel, l'hanno deciso proprio sempre arbitrariamente, hanno deciso misuriamo non in centimetri, non in pollici, non in, misuriamoli in pixel, visto che tanto è tutta roba finta. E calcoliamo che non si devono mai superare i 10 pixel tra il fondo e il davanti. Quindi insomma, un personaggio può avere 4 pixel davanti a sé e 6 dietro, per dire. Non di più, assolutamente no. Solo in casi proprio eccezionali, se vogliamo fare qualcosa di pazzesco. Però le animassi mai. Quindi il pupazzetto che esce fuori dallo schermo, che vola. Questo passeggia. Loro assolutamente no. E poi hanno deciso un'altra cosa: di prendere come referente di questi 10 pixel di profondità il punto in ogni momento, cioè per ogni inquadratura, il punto in cui si dovrebbe soffermare lo sguardo dello spettatore, cioè quello che secondo loro è il centro della scena. Quindi c'è un individuo, che credo sia uno o forse due, che è l'addetto al 3D, che si occupa per ogni fotogramma di dire: allora, questo è il centro dell'inquadratura, questa è la cosa più importante. Per questo... ogni fotogramma? Sì, beh, molti saranno simili, chiaramente, però insomma lui lo fa fotogramma per fotogramma, perché va deciso ogni volta, perché sai, magari il fotogramma dopo, quell'oggetto che gli era dietro gli si è avvicinato, quindi bisogna restringere di ancora di più la profondità. Lavorone proprio, una cosa inumana. Quanti fotogrammi sono un film? Allora, sono 25 al secondo, in un'ora ci sono 60 minuti e quindi 3600 secondi. 3600 per 25 farà una cosa come 72 800.000, una cosa del genere. Un'ora 800.000? Sì. No, ma come fa da solo a fare 800.000 inquadrature? È impossibile. Beh, ma tu calcola che loro comunque non devono farlo alla fine. Cioè non è che a cartone finito lo facciamo. Per dire, per Toy Story 3 ci sono molti 4 anni in totale per farlo, dall'inizio alla fine. Di cui da quando, diciamo, cominciano ad avere una prima immagine grezza, poi da lavorare e migliorare, più o meno dal secondo anno. E lui ha 2 anni di tempo. Anche quando l'immagine è grezza, comunque puoi decidere le profondità. E lui dal secondo anno, ogni giorno, tac, tac, tank. E appunto individua, per ogni inquadratura individua qual è il punto centrale dove si guarda, quindi solitamente il personaggio principale. Però, scusa, loro fanno un film all'anno, o sbaglio? Sì, perché hanno cominciato scalato. Ah, capito? Quindi 4 anni. Adesso hanno 3 film in preparazione. Uno appena iniziato, uno al secondo anno, uno al terzo e basta. Poi ah, quindi è proprio una catena di montaggio vera e pazzesca. Propria. Infatti Quaroni diceva che lui ha lavorato a Toy Story 3 e adesso comincia quello che esce da 3 anni, che è Monsters & Co. 2, se non sbaglio. E insomma, decide per ogni inquadratura qual è il punto che si sta guardando e da lì fa le misurazioni per fare il 3D. Il risultato qual è? Il risultato è che se uscite dal cinema potete anche dire: ah, ma non mi sembrava in 3D. Però in realtà è proprio diverso, è difficile da spiegare, dovete vederlo. Il cinema ha 24 fotogrammi al secondo, il video ne ha 25. Ha ragione, ho detto una grande stupidaggine. 90.000. Vabbè, ho fatto un calcolo così. Qui chiedere come si chiama quel film belga fatto con i pupazzi con un cavallo come personaggio. Questo è perché si ricorda evidentemente Francesco Alò che l'altra volta urlava cheval. Si chiama Panico al villaggio. Guarda Eclipse, poca azione, una ragazza che non sa decidere di diventare zoofila o necrofila. Bellissimo. Eclipse è il nuovo Twilight di cui abbiamo parlato l'altra volta, che ha macinato, ha veramente macinato, ha fatto 3 milioni così al volo. Accidenti. Nel primo weekend, calcolando che è stato, infatti sarà un bello scontro questo weekend, dove ci sta Twilight che è al secondo weekend nei cinema, quindi che va già alla grande, e Toy Story che chiaramente è appena arrivato, pure lui ha un suo pubblico, diciamo, discretamente affezionato. Prossime uscite Predators, allora, che mi dicono non sia male. Allora, Predators l'ho visto. Beh, è buono. Non esageriamo, non è che ci spertichiamo, però è buono e non me l'aspettavo. Allora, innanzitutto te lo dico subito, secondo me, e mi sbilancio, i primi 120 secondi più forti degli ultimi 15 anni. Cioè ha un inizio subito immediato, veramente i primi 2 minuti proprio così, ma straordinari, straordinari non solo perché ti buttano subito dentro il film con classe, con raffinatezza e con più dinamica. Dell'inseguimento di 007 in quello, però è molto molto lungo quello, cioè non dura due minuti, quello dura una decina, quello è bellissimo quello, cioè se vogliamo fare i migliori inizi quello vince, però nei migliori primi due minuti vince questo, perché questo è pazzesco, non ve lo dico perché proprio è bella la sorpresa. E però inizia molto bene ed è anche molto una dichiarazione di guerra, cioè ti fa capire subito che film hai di fronte, un film che è subito serie B, cioè per serie B intendo come pregio, cioè un film che inizia quando inizia l'azione e finisce quando finisce l'azione, non ci stanno classico, prologhi, spara tutto. Esatto, si entra e si esce in dolore proprio. E innanzitutto recupera molto il vero Predator, cioè ormai i film di Predator sono 5. Cioè il primo, il secondo che è quello con Danny Glover ambientato a Los Angeles, che è meglio dimenticarlo. Terribile quello, terribile. Terribile. Alien contro Predator con Raoul Bova. Che no, io quello me lo sono risparmiato. Diciamo che la definizione si commenta da solo. E Alien contro Predator 2, che è proprio totalmente senza nessun senso. È l'abbrutimento della filmografia. Proprio. Sì, è proprio una cosa incredibile. Questo qua invece recupera un sacco di cose del primo in maniera non banale, cioè non vuole copiarlo, però si riattacca direttamente. Il merito di chi è? Secondo me il merito è uno, di Robert Rodriguez che produce, che è uno molto intelligente come produttore. A me non piace molto come regista, ma come produttore è molto intelligente e molto attaccato al cinema dei generi anni 70-80, insomma è uno che conosce molto il cinema. E soprattutto, vedrete, è merito di Nimrod Antal. Nimrod Antal è il regista che è stato scelto, che era uno che aveva già fatto Vacancy, che non era un film che già avevo consigliato da questi microfoni, che non era niente male, e ha fatto anche Bronson e Armored, che sono altri due film veramente curiosi e particolari. È un regista di quelli che non mostrano se stessi, cioè che ti fanno vedere il film, cercano semplicemente di buttarti totalmente dentro il film, ma è bravissimo a dirigere l'azione. Ed incredibilmente ci sta Adrien Brody, protagonista, che è il protagonista del Pianista di Polanski, che è perfetto, nonostante sia uno che non ha mai fatto un film d'azione vero, cioè la cosa più d'azione che ha fatto era King Kong, però è assolutamente perfetto in questo ruolo, è diventato grossissimo. L'ho potuto anche intervistare, gli ho anche chiesto come ha fatto in poco a diventare grosso veramente. Ma grosso in che senso? Grosso, muscoloso, definito. Lui che era un secchetto, cioè insomma, se vi ricordate il Pianista, è uno veramente magro. E dice: guarda, non ho mangiato alimenti che si comprano, cioè è solo roba tra virgolette chimica, cioè roba proprio fatta apposta, con un mega personal trainer, una marea di esercizi chiaramente, però veramente un regime di vita impensabile per chiunque, solo per uno che ha deciso che deve diventare grosso per lavoro praticamente. Però il risultato ammazza, si vede. Solomon Kane ancora non l'ho visto, esce tra un po', però sono curioso. Lo so, ti sento che fremi su Solomon Kane. Sì, perché ho visto i trailer, è bello e sfiziano. Sì. Vabbè, altre cose che usciranno. Esce questa settimana. Questa settimana, insieme a Toy Story 3, esce anche un film. Quelle cose stranissime della distribuzione italiana. Un film di 2 anni fa. Però esce adesso. Era anche, tra l'altro, in Italia era già arrivato, perché io l'avevo visto al Festival del Film di Roma. Perché il Festival del Film di Roma sta avanti. Diciamolo. E che si chiama Che fine ha fatto Osama Bin Laden? Che già dal tema c'è una cosa vecchia. Ma fa ridere? Sì. Perché Morgan Spurlock, che è il documentarista che aveva fatto Super Size Me, quel documentario sui McDonald's, che aveva fatto quell'esperimento per quel documentario, che avrebbe mangiato unicamente roba di McDonald's per, non mi ricordo quanto, forse un mese. E quello era un bel documentario sull'alimentazione in America, non era stupido come può sembrare. Questo qui invece è un documentario su lui che va a cercare, in prima persona va a cercare Osama Bin Laden. Adesso mi metto e vado. Per dimostrare una serie di cose, soprattutto poi è tipico di Morgan Spurlock che mette lo specchietto per le allodole, quindi in questo caso lo specchietto è Bin Laden, ma in realtà il documentario è sull'integrazione tra America e paesi medio orientali, sui pregiudizi e su smentire questi pregiudizi, e anche molto su come queste persone vedano gli americani, come siano percepiti, che è una cosa che magari oggi è più vista, sentita, più scontata, ma mi ricordo quando lo vidi all'epoca era uno dei primi documentari che cercavano di fare questo, poi dovete sempre immaginarvi che sono documentari per gli americani, molto cercavano di mostrare agli americani come sia la situazione per davvero, come siano visti, quale sia l'altro, il rovescio della medaglia di quello che stavano facendo. Vabbè, ce ne possiamo andare perché è arrivato Mario. Che succede? Dimmi, Mario. Prego. Posso? Ciao. Mi sembra il momento adatto per sottolineare una cosa, secondo me, prestigiosa. Tu l'avrai già detta, però siccome lui è un critico cinematografico, Radio Rock sponsorizza Notti di Cinema a Piazza Vittorio, che è una cosa... Ti dirò di più. Ah, l'avete già detto. Ti dirò di più. Abbiamo, siccome sponsorizziamo, abbiamo anche mandato un nostro uomo. Ah, Francesco. Sì, le Notti di Cinema a Piazza Vittorio, che sono sostanzialmente l'arena all'aperto a Piazza Vittorio che manda i film della passata stagione. Attenzione, scusa se mi permetto. Sì, sì. Che l'arena c'ha un fascino, insomma. Straordinario, no? Scusa se mi permetto. No, bellissimo, cioè, ogni anno è bellissima l'arena di Piazza Vittorio. E tanto sono due grandi schermi, è veramente un posto straordinario. Quest'anno fanno il ping pong del cinema italiano, non ho voluto chiamare, che è un ogni lunedì e ogni giovedì, a seguito del film italiano, c'è l'incontro o con un attore o con un regista. Il lunedì sono tutti attori e li cura Franco Montini, che è un giornalista e critico. Il giovedì sono tutti registi e li cura Francesco Alò. C'è stato ieri Io sono l'amore, che è un capolavoro, un film fantastico, e c'era il produttore in questo caso, però insomma solitamente ci sono i registi. Fasser, posso sfruttare il tuo uomo? Io? Come no? Allora, prima cosa devo dire che stiamo parlando di un'iniziativa che svolge nella mia fascia di programmazione, quindi evidentemente mi sto togliendo in diretta concorrenza, mi sto togliendo il pubblico, però quando è giusto è giusto, poi siamo d'estate. Però mi permetto, domani io non lavoro, domani è sabato, ecco, domani e dopodomani ci sono sabato 10 e domenica 11. Da una parte c'è quello normale e l'altro è la sala d'essai. Mi consigli allora, un film sia per sabato che per domenica? Io non ho problemi sia quello normale che quello d'essai. Se è bello è bello. Allora, io chiaramente a guardarli preferisco quelli d'essai, sono più belli in questi due giorni. Allora, sabato 10 fanno Lourdes alle 23:15, che è un film molto bello. Lourdes è da vedere. Sì, molto delicato, veramente è. Domenica 11 invece fanno un film meno delicato, anzi molto violento, ma non violenza sangue, violenza mentale. Molto molto violento, ma bellissimo, che è Il nastro bianco. Ma secondo me è anche più bello di Lourdes, che ha vinto Cannes l'anno scorso, di Michael Haneke. È un film in un bianco e nero molto saturo, ve lo dico in due parole perché magari merita. È un film in bianco e nero molto saturo che racconta della Germania del secondo Reich, quindi prima della prima guerra mondiale. No, attenzione, perché adesso vi spiego. È un piccolo paese della Germania in cui succedono una serie di cose strane. Per strane intendo una persona muore, ci sono degli incidenti strani, molto è. E sembra, poi il film lo dovete vedere, però quello che sembra da subito, dall'inizio, che siano i bambini a fare queste cose. È una cosa molto strana. Quindi io per il weekend sto a posto. Sabato vado a vedere Lourdes e domenica anticipo e vado al Nastro Bianco. Sto a posto. Sì. Poi vengo da lei. E vedrai, fai caso nel Nastro Bianco, fai caso a ci come... sei anche tu. No. Forse il Nastro Bianco ci vengo a vederlo. Attenzione. No, ci sei anche tu nel film. No, non è. No, non faccio una comparsata. Nel Nastro Bianco, se poi fai caso a come il regista sembra odiare i protagonisti, sembra odiare perché sembra volergli infliggere le peggiori pene, le peggiori umiliazioni. E poi, se tu ti fai brevemente un calcolo di questi bambini, che età hanno, in quale anno, cioè ai primi del Novecento hanno 10 anni, che età avranno nella Germania degli anni 30? Ti fa capire più o meno anche su cosa è il film poi in realtà. Vabbè, magari io noto qualcos'altro. Ma sicuramente, semplicemente io davo il mio, l'imbeccata. Ok, ci farò caso, grazie. Chiudiamo qui, grazie Mario. Allora, non abbiamo parlato invece di... Sì, ho chiuso più. Non abbiamo parlato di... Di? Io non dimentico. Allora, perché quello che è capitato è che Faster mi manda dobbiamo chiudere, non posso. Settimana prossima annunciamo che parleremo di Io non dimentico, un film fortemente un capolavoro che io avrei, pensa, me lo sarei perso se non me l'avessi consigliato tu. Grandissima attrice. Anzi, magari voi vedetelo, recuperatelo in DVD, vedetevelo anche voi, che poi se ne parla settimana dopo. Una Eleonora Duse. Esatto. Guarda, sei una Magnani. Alle volte mi sembrava Magnani. Avete i momenti. Grazie, ciao Dio, ci vediamo più tardi per chi verrà a trovarci alla spiaggetta. Ricordatevi sempre che una pietra che rotola non raccoglie mai sicuro. Grazie, ciao. Ciao.